Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Abbiamo visto nell'ultima lettura, dopo tutti i traffici pietroburghesi di Hélène per annullare il suo matrimonio con Pierre, il precipitare della situazione moscovita. Tolstoi racconta l'abbandono della città attraverso quello che accade nella famiglia Rostov. I preparativi confusi e complicati per la partenza, che vengono interrotti dall'arrivo di alcuni carri di feriti. Questi sono prima alloggiati nel palazzo e poi accolti, scaricando anche oggetti e arredi di grande valore, sulle carrozze e sui carri che lasciano la città. Nel mentre la famiglia si avvia per le strade di Mosca, Natascia avvista e riconosce Pierre. Ma è un Pierre taciturno e sconvolto quello che le risponde. E veniamo anche a sapere che tra i feriti trasportati nel convoglio dei Rostov si trova il principe Andrei Balconski. Riprendiamo adesso la nostra lettura cercando di capire il perché dello stato di Pierre. Svegliatosi il giorno che seguì il suo ritorno a Mosca, Pierre per un pezzo non poté capire dove si trovasse e che cosa si volesse da lui. Quando, fra gli altri nomi delle persone che lo aspettavano nella sala di ricevimento, gli annunziarono anche un francese, l'autore di una lettera della contessa Elena Vasilievna, egli fu preso a un tratto da quel senso di turbamento e di sconforto al quale andava soggetto. Ebbe l'impressione che tutto ormai era finito, imbrogliato, crollato, che non c'era né diritto né torto, che innanzi a lui non c'era più nulla, nessun modo di uscire da quella situazione. Con un sorriso forzato sulle labbra, borbottando qualcosa, ora si sedeva sul divano in atteggiamento di sconforto, ora si alzava, andava verso la porta e gettava un'occhiata dal buco della serratura nella sala di ricevimento e poi, gesticolando, tornava indietro e prendeva un libro. Il maggiordomo per la seconda volta venne ad annunziare a Pierre che il francese, che era l'autore di una lettera della contessa, desiderava molto di vederlo, anche per un minuto solo, e che erano venuti da parte della vedova di Vazieyev a pregare che prendesse in consegna i libri, perché la signora Vazieyev era partita per la campagna. Ma appena il maggiordomo fu uscito, Pierre prese il cappello che era sulla tavola e uscì dallo studio per l'altra porta. Nel cortile non c'era nessuno. Pierre giunse al primo pianerottolo. Il portiere stava sul portone grande. Un'altra scala conduceva all'entrata di servizio. Pierre si mise per quella e uscì nel cortile. Nessuno l'aveva visto. Ma sulla strada i cocchieri che stavano lì con le loro carrozze e il portiere videro il padrone e si tolsero il berretto. Sentendo quegli sguardi fissi su di lui, Pierre agì come lo struzzo, che nasconde la testa fra i cespugli per non essere visto. Abbassò il capo e, affrettando il passo, si allontanò per la strada. Di tutte le cose che Pierre avrebbe dovuto fare quella mattina, la cernita dei libri e delle carte di Iosif Alexeievich gli parve la più necessaria. Prese la prima vettura di piazza che gli si parò davanti e ordinò al cocchiere di andare alla casa della vedova di Vazieyev. Guardando continuamente i convogli di carri provenienti da tutte le parti della gente che partiva da Mosca e raddrizzando il suo corpo grasso per non essere sbalzato fuori dalla vecchia e sgangherata vettura, Pierre discorreva col vetturino con un senso di piacere simile a quello che prova il bambino scappato da scuola. Giunse a un cancelletto. Gerasim, un vecchietto dal viso giallo e sbarbato, venne al suo bussare. «È in casa?» domandò Pierre. «Eccellenza, Sofia Danilovna, viste le odierne circostanze, è andata coi figli in campagna, vicino a Torzok. Entro lo stesso, debbo fare la scelta dei libri», disse Pierre. «Favorite, venite pure!» Il fratello del defunto, che Dio l'abbia in gloria, Makar Alexeievich, è rimasto, ma, come sapete, è debole di mente, disse il vecchio servo. Era di grande ingegno, ma ora è indebolito. Volete favorire nello studio? Pierre accennò di sì col capo, ed entrò in quel medesimo studio tenebroso nel quale egli, quando era ancora in vita il benefattore, entrava sempre con un certo tremito. Gerasim aprì uno scuretto e in punta di piedi uscì dalla stanza. Pierre fece il giro dello studio, si avvicinò a un armadio nel quale erano i manoscritti e prese uno di quelli che erano i documenti più importanti dell'ordine. Sedette alla scrivania coperta di polvere, si mise i manoscritti davanti, li aprì, li richiuse e finalmente, respingendoli da sé, poggiò i gomiti sulla tavola e con la testa fra le mani stette a meditare. Più volte Gerasim gettò cautamente un'occhiata nello studio e vide che Pierre stava sempre nella stessa posizione. Passarono più di 2 ore. Gerasim si permise di fare un po' di rumore vicino alla porta per attirare su di sé l'attenzione di Pierre. Pierre non l'udì. «Ordinate che si mandi via il vetturino?» «Ah, sì, sì, sì», disse Pierre, rientrando in sé e alzandosi in fretta. «Ascolta», aggiunse prendendo Gerasim per un bottone della giubba e guardando dalla sua altezza il vecchietto coi suoi occhi splendenti, umidi, entusiasti. «Ascolta, sai che domani ci sarà una battaglia?» «L'hanno detto», rispose Gerasim. «Ti prego di non dire a nessuno chi sono io e fa quel che ti dirò». «Sì, signore», disse Gerasim. «Ordinate che si porti da mangiare?» «No, ma ho bisogno d'altro. Ho bisogno di un vestito da contadino e di una pistola», disse Pierre, arrossendo improvvisamente. «Sì, signore», disse Gerasim, dopo aver pensato un poco. Tutto il resto di quella giornata Pierre lo passò solo nello studio del benefattore, passeggiando inquieto da un angolo all'altro, per quel che udì Gerasim, e parlando fra sé, e trascorse la notte su di un letto che gli prepararono lì. Gerasim, con l'abitudine di un servo che ha veduto molte cose strane in vita sua, non si meravigliò che Pierre si fosse installato lì. Anzi, parve contento di avere qualcheduno da servire. Quella sera stessa, senza domandare neppure a sé medesimo a che cosa potessero essere utili quelle cose, procurò a Pierre un gabbano e un berretto e promise di trovare per il giorno dopo la pistola richiesta. Makar Alexievich, 2 volte in quella sera si accostò alla porta, ciabattando con le sue soprascarpe, e si fermò, guardando Pierre come per ringraziarselo. Ma appena Pierre si voltava verso di lui, egli, vergognoso e irritato, incrociava i lembi della sua veste da camera e si allontanava rapidamente. Mentre Pierre, nel suo gabbano da cocchiere che Gerasim si era procurato e aveva lavato nell'acqua bollente, andava insieme con lui a comprare una pistola, presso la torre Sukareva aveva incontrato i Rostov. Nella notte del 1 settembre, Kutuzov ordinò alle truppe russe di ritirarsi oltre Mosca, sulla via di Ryazan. Verso le 10 di mattina del 2 settembre non restavano più nel sobborgo di Dorogomilovo che le truppe della retroguardia. L'esercito era già dall'altra parte della Moskva e dietro Mosca. Nello stesso momento, alle 10 di mattina del 2 settembre, Napoleone stava in mezzo alle sue truppe sulla collina Pokolonnaya e guardava lo spettacolo che si scopriva innanzi a lui. Per tutti i giorni di quella tremenda, di quella memorabile settimana, ci fu quell'insolito tempo autunnale che sempre meraviglia la gente, quando il sole basso scalda più che in primavera, quando tutto splende nell'aria limpida e pura, sicché gli occhi sono abbagliati, quando il petto si sente forte e fresco respirando la profumata aria autunnale e anche le notti sono tiepide e in queste oscure e tiepide notti cadono continuamente dal cielo delle stelle d'oro, spaventando e rallegrando la gente. Il 2 settembre alle 10 di mattina il tempo era così. Lo splendore della giornata era incantevole. Mosca, veduta dalla collina Poklonnaya, si stendeva ampiamente col suo fiume, i suoi giardini e le sue chiese, e pareva vivere d'una sua vita particolare, con le sue cupole che nei raggi di sole palpitavano come stelle. Alla vista di quella strana città, con le forme non mai vedute della sua inconsueta architettura, Napoleone provava quella curiosità alquanto invidiosa e inquieta che le persone provano alla vista delle forme d'una vita estranea che le ignora. Evidentemente, quella città viveva con tutte le forze della sua vita. Ogni russo, guardando Mosca, sente che essa è la madre. Ogni straniero, guardandola e non conoscendo il suo significato materno, deve sentire almeno il carattere femminile di questa città. E Napoleone lo sentiva. «Cette ville asiatique, aux innombrables églises, Moscou la sainte, la voilà donc enfin, cette fameuse ville, il était temps». E guardava la bellissima orientale che giaceva innanzi a lui e che egli non aveva ancora vista. Pareva strano anche a lui di vedere finalmente esaudito il suo vecchio desiderio, che gli era parso irraggiungibile. Ma poteva forse essere diversamente? Pensava. Eccola, questa capitale, ai miei piedi, che aspetta la sua sorte. Dov'è ora Alessandro? E che pensa? Strana, bella città. E com'è strano e grandioso questo momento. In che luce compaio loro. diceva a se stesso, pensando alle sue truppe. Eccola la ricompensa per tutti questi uomini di poca fede, pensava, guardando le truppe che si avvicinavano e si allineavano. Una mia sola parola, un solo cenno della mia mano ed eccola distrutta, questa antica capitale degli zar. Ma la mia clemenza è sempre pronta a scendere sui vinti. Io debbo essere magnanimo e veramente grande. Eccola, che giace ai miei piedi, con le sue cupole dorate e le sue croci che svariano e tremolano ai raggi del sole, ma io la risparmierò. Alessandro ne sarà tanto più dolorosamente colpito, ne sono sicuro. A Napoleone pareva che il precipuo significato di ciò che accadeva fosse racchiuso nel conflitto personale fra lui ed Alessandro. Dall'alto del Cremlino? Sì, questo è il Cremlino, sì. Darò loro leggi di giustizia. Mostrerò loro il valore della vera civiltà, obbligherò le generazioni dei boiari a ricordare con amore il nome del proprio conquistatore. Dirò alla loro deputazione che non ho voluto e non voglio la guerra, che ho fatto la guerra soltanto alla falsa politica della loro corte, che amo e rispetto Alessandro e che accetterò a Mosca condizioni di pace degne di me e dei miei popoli. «Comme amène le boyard», fece rivolto al suo seguito. Un generale, con un brillante stato maggiore, galoppò subito a cercare i boiari. Passarono 2 ore. Napoleone aveva fatto colazione e stava di nuovo in quel medesimo punto, sulla collina Poclonnaia, aspettando la deputazione. Il discorso ai boiari si era già composto chiaramente nella sua fantasia. Questo discorso era pieno di dignità e di grandezza. Quel tono di magnanimità che egli aveva intenzione di usare nei suoi atti a Mosca aveva conquistato lui stesso. Nella sua immaginazione fissava i giorni di riunione nel palazzo degli zar, dove dovevano trovarsi insieme i grandi dignitari russi coi grandi dignitari dell'imperatore dei francesi. Designava nella sua testa un governatore che sapesse conciliarsi la popolazione. «Ma davvero sono a Mosca?» «Sì, eccola davanti a me». «Ma perché tarda tanto a venire la deputazione della città?» pensava. Intanto, nelle ultime file del seguito dell'imperatore, cominciava un inquieto e sommesso consultarsi a vicenda fra i suoi generali e marescialli. Coloro che erano stati mandati a prendere la deputazione erano tornati con la notizia che Mosca era vuota, che tutti se ne erano andati con ogni mezzo dalla città. I visi di quelli che si consultavano erano pallidi e sconvolti. Si spaventavano non tanto perché Mosca era abbandonata dai suoi abitanti, per quanto grave sembrasse questo fatto, ma si spaventavano pensando al modo di annunziarlo all'imperatore senza porre Sua Maestà in quella situazione tremenda che i francesi chiamano ridicule, ridicolo, con lo spiegargli che era stato lì tanto tempo per nulla ad aspettare i boiari, che c'era soltanto una quantità di ubriachi, ma nessun altro. La situazione era tanto più penosa in quanto l'imperatore, meditando i suoi progetti di magnanimità, camminava con impazienza in su e in giù davanti a una carta geografica e guardava di tanto in tanto, facendosi schermo con la mano, sulla strada di Mosca e sorrideva allegro e fiero. «Ma c'est impossible», dicevano i signori del seguito, stringendosi nelle spalle, senza decidersi a pronunziare la terribile parola sottintesa da tutti, «le ridicule». Intanto l'imperatore, stanco della sua vana attesa e sentendo col suo fiuto di attore che quel solenne momento, prolungandosi troppo, cominciava a perdere la sua grandezza, fece un cenno con la mano. Si udì una cannonata di segnale e le truppe, che da varie parti circondavano Mosca, si lanciarono nella città. I reparti si inseguivano l'un l'altro, sempre più in fretta, a passo di corsa e al trotto, nascosti dai nuvoli di polvere che facevano levare e riempiendo l'aria del rumore confuso delle loro grida. Trascinato dal movimento delle truppe, Napoleone arrivò con esse fino alla barriera Dorogomilovskaya, ma lì si fermò di nuovo e, smontando da cavallo, passeggiò un pezzo presso il bastione del collegio di camera, aspettando la deputazione. Mosca, frattanto, era vuota. c'era ancora gente. Ci rimaneva ancora la cinquantesima parte degli abitanti di prima, ma era vuota. Era vuota come un'arnia che langue senza l'ape regina. Nell'arnia senza regina non c'è più vita, ma ad uno sguardo superficiale essa sembra viva come le altre. Ai caldi raggi del sole di mezzogiorno le api turbinano intorno all'arnia senza regina altrettanto allegramente come intorno alle altre arnie vive. Allo stesso modo se ne spande lontano l'odore di miele, allo stesso modo vi entrano e ne escono a volo le api, ma basta guardarla attentamente per capire che in quell'arnia non c'è più vita. Le api non volano lì come intorno alle arnie vive. Non è lo stesso odore, non è lo stesso ronzio quello che colpisce l'apicoltore. Se l'apicoltore picchia sulla parete dell'arnia malata, invece della risposta immediata e concorde di prima, invece del ronzio di 10.000 api che si levano minacciose e col rapido battere delle ali producono quell'aereo rumore di vita, gli rispondono isolati ronzii che risuonano sordamente in diversi punti dell'arnia vuota. Non esala più dall'apertura, come prima, un odore profumato e alcolico di miele e di veleno. Non ne viene più quel tepore d'una casa piena, ma con l'odore del miele si fonde un odore di vuoto e di putrido. All'apertura non ci sono più le guardiane, pronte a morire per la difesa, che alzano in su l'addome e suonano l'allarme. Non c'è più quel rumorio uguale e sommesso, quel fremito del lavoro che somiglia al rumore di un'acqua che bolle, ma si odono gli irregolari, isolati rumori del disordine. Volano nell'arnia e se ne escono, timide e furtive, le api predatrici, nere, lunghe, coperte di miele. Non pungono, ma sfuggono il pericolo. Prima le api entravano solo col bottino e uscivano a vuoto, ora escono col bottino. L'apicoltore apre il foro di sotto e guarda nella parte inferiore dell'arnia. Invece delle pingui api, che prima pendevano a grappoli neri, pacificate dal lavoro fino al piano di sotto e che si tenevano l'una all'altra per le zampe e con un laborioso ronzio ininterrotto costruivano i favi, delle api sonnolente e disseccate vagano distrattamente da varie parti sul fondo e per le pareti dell'arnia. Invece del piano accuratamente turato e spazzato dal ventaglio delle api, giacciono sul fondo briciole di cera, deiezioni di api, api mezzo morte che appena muovono le zampette e altre già morte e non tolte di mezzo. L'apicultore apre il foro superiore dell'arnia e ne guarda il sommo. Invece delle file compatte di api che coprono tutti gli alveoli dei favi e scaldano le uova, vede bensì il complesso, ingegnoso lavoro dei favi, ma non più in quell'aspetto verginale che aveva prima. Tutto è abbandonato e insudiciato. Le nere api predatrici vanno e vengono frettolose e furtive tra i lavori. Le api dell'arnia, disseccate, tozze, molli, come se fossero vecchie, errano lentamente senza dare noia a nessuno, senza desiderare nulla, senza più coscienza di vivere. I fuchi, i calabroni, le farfalle urtano follemente nel volo contro le pareti dell'arnia. Qua e là, fra gli alveoli che racchiudono le larve morte e il miele, si ode di tanto in tanto da varie parti un brontolio irritato. In qualche punto due api, per antica abitudine e per reminiscenza, ripuliscono il nido dell'arnia e a fatica, sforzandosi, trascinano via un'ape morta o un bombo senza sapere loro stesse perché lo facciano. In un altro angolo, altre due vecchie api si battono con indolenza, o si ripuliscono o si nutrono l'una con l'altra, e non sanno se è per amicizia o per odio che lo fanno. In un terzo punto, una folla di api che si spingono a vicenda assale una vittima qualunque e la batte e la soffoca. E l'ape indebolita o uccisa cade lentamente dall'alto, con la lievità di una piuma, sul mucchio dei cadaveri. L'apicultore rivolta i due favi di mezzo per vedere il nido. Invece dei cerchi neri, compatti di una volta, formati da migliaia di api, addossate l'una all'altra a guardia dei più alti misteri dell'alveare, vede centinaia di api intristite, semivive e addormentate, scheletri di api. Quasi tutte sono morte, senza accorgersene, ferme sul santuario che esse vegliavano e che non esiste più. Ne viene un odore di putridume e di morte. Soltanto alcune si muovono, si alzano, volano pigramente e si posano sulla mano del nemico, senza avere la forza di pungerla prima di morire. Le altre, le morte, piovono giù leggermente, come scaglie di pesce. L'apicultore chiude l'arnia, la segna col gesso e, quando ha tempo, la spezza e la brucia. Così era vuota Mosca. Quando Napoleone, stanco, inquieto e accigliato, camminava avanti e indietro presso il bastione del collegio di camera, aspettando quella formalità esteriore ma necessaria secondo il suo criterio, che era una deputazione. In differenti punti di Mosca si agitavano ancora inconsciamente delle persone, conservando vecchie abitudini, senza capire quello che facevano. Quando a Napoleone, con la dovuta cautela, fu annunziato che Mosca era vuota, egli guardò con rabbia colui che aveva portato la notizia e, voltandogli le spalle, seguitò a passeggiare in silenzio. «Fate avanzare la carrozza», disse poi. Salì in carrozza accanto all'aiutante di campo di servizio e andò verso il sobborgo. Mosca deserta. «Che evento inverosimile», diceva fra sé. Non entrò in città, ma si fermò alla locanda del sobborgo di Dorogomilovo. «Le coup de théâtre avaient raté». Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.